Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora i temi di questa giornata economico-finanziaria, oltre ai mercati, dopo un avvio così almeno invariato, tranquillo, rialzi marginali dello 0,5%, adesso purtroppo il segno meno è prevalente, lo è anche in maniera netta. Meno 2% Parigi, meno 3% Francoforte, meno 1,8% Milano, meno 2,5% in America. Il Dow Jones ha contribuito non poco a questo cambio di rotta sulle borse europee, e ancora Londra perde l'1,22%, il Nasdaq perde il 3%. L'euro è in caduta libera, è un termine abusato e non ha nessun senso in questo caso, però siamo a 1,3777, ricordo che fino a qualche settimana fa eravamo 1,47 con quel picco famoso di luglio che ormai sembra secoli fa, e cioè il 15 luglio quando l'euro era 1,60. Adesso siamo a 1,377 e non a caso in borsa se ne avvantaggiano alcuni titoli legati alle esportazioni, però vanno particolarmente male gli energetici adesso, e la cosa andrà capita più avanti quando faremo il commento di borsa, perché A2A perde il 6,6%, Prysmian perde il 6%, energetici ma non solo, chiaramente Saipem meno 5,87, Popolare di Milano la peggiore tra le banche meno 4,4, Tenaris meno 4, Fiat meno 3,86, Banco Popolare meno 3,85, Pirelli meno 3,27, Ubibanca meno 2,7, Generali meno 2,3, Eni meno 2%, Buzzi Unice meno 1,90, come Intesa San Paolo, Finmeccanica meno 1,7 come Bulgari e Unicredito, e ancora Snam perde l'1%, bene in pregilo più 4,20, Mediolanum più 4, ST Microelectronics più 2,7, Parmalat più 2,2, L'Espresso più 1,6, il Monte dei Paschi e Mediobanca in rialzo di un punto percentuale, unico tra gli energetici a non avere il segno meno, direi che è nel più 0,6%. Parleremo quindi di mercati, le dichiarazioni di poco fa del Fondo Monetario Internazionale sono, poi le commenteremo con il nostro animale preferito in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, ahimè, ma poi ci sono anche le dichiarazioni del Ministro dell'Economia Tremonti, sia sulla la parte fiscale, quindi la politica economica italiana, ma anche sui mercati, in attesa di questo vertice di sabato a Parigi, i G4, ossia le economie più importanti dell'Europa, per capire che cosa fare. La Francia oggi, lo dico subito, ha smentito l'ipotesi che si stia predisponendo un piano sulla falsa riga, comunque un piano di garanzia ed eventualmente salvataggio dal valore di 300 miliardi di dollari. L'ipotesi era circolata ieri, oggi è stata smentita da Parigi direttamente. Poi parleremo del tavolo dei contratti, nuova dichiarazione oggi del leader della CGIL Epifani, ma anche del presidente di Confindustria Marcegaglia. Il tutto quando domani a Capri, dove trasmetteremo in diretta come ogni anno, aprirà la due giorni dei giovani di Confindustria, dedicata all'energia, ma è chiaro che il tema dei contratti, del rinnovo dei modelli contrattuali e il tema anche della crisi finanziaria saranno temi e insomma convitati di pietra nelle due giorni caprese, in cui tra l'altro vi saranno anche il ministro dell'economia Tremonti e numerosi esponenti dell'opposizione. Ne parleremo tra circa un'ora, vari ministri di questo governo oltre che numeri di uno dei grandi gruppi industriali di questo paese. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora partiamo subito con le notizie in breve. Come sempre avviene, non è solo l'euro a scendere a 1,3771, ma anche il petrolio lo segue, perché quando si rafforza il dollaro il petrolio tende a calare. 95 dollari in apertura oggi a New York. Per quello che riguarda il rapporto di cambio euro-dollaro, siamo ai minimi da oltre un anno. All'Italia anche di questo parleremo più avanti, perché oggi ci sono due fronti, c'è il fronte della CAI che oggi l'assemblea della CAI ha dato via libera all'unanimità per l'offerta di acquisto di Alitalia, ma c'è il fronte anche europeo che non si chiama solo 300 milioni di prestito concessi all'Alitalia che Bruxelles prima o poi ci farà sapere se o la CAI o il governo italiano deve ridare. Anzi, scusatemi, se la CAI deve ridare al governo italiano perché li ha prestati lo Stato italiano, ma c'è anche l'esposto di Ryanair contro il piano di salvataggio. Sempre dall'Europa, oggi la Commissione europea ha deciso di prorogare i dazi sulle calzature provenienti da Cina e da Vietnam fino a 15 mesi, ossia il periodo massimo durante il quale la Commissione europea può svolgere l'indagine per accertare l'esistenza di un dumping, ossia di beni venduti sotto il prezzo di costo. I consumi italiani anche ad agosto, lo dice la Confcommercio, meno 1,5% è il decimo mese su 12 di calo nei consumi. La Confcommercio si occupa della quantità e non del valore, però insomma il dato è obiettivamente preoccupante, anche perché nello stesso periodo del 2007 vi fu un più 1,3%. Conti pubblici italiani. Allora, il deficit nei primi sei mesi sale al 2,6% del PIL contro l'1,5% dei primi sei mesi del 2007. È un punto percentuale in più, anche se nel secondo trimestre del 2008 il deficit si è attestato allo 0,5% del PIL, e questo in calo rispetto al secondo trimestre del 2007. Il saldo primario però, ossia l'avanzo, quello che resta nelle casse dello Stato prima di pagare gli interessi sul debito, è sceso al 2,5% del PIL, in calo rispetto al 3,4% dell'anno scorso. È un dato molto importante questo, c'è una perdita di quasi di oltre 10 miliardi rispetto all'anno scorso, ed è un dato importante perché ci dice come, quanti soldi restano nelle casse dello Stato al netto di quelli che sono interessi da pagare su un debito che è stato contratto nel corso dei decenni. Per cui è un dato che ci dà anche la gestione delle casse dello Stato al di là di quelli che sono interessi che dobbiamo comunque pagare. E le entrate nelle casse dello Stato sono aumentate dell'1%, pari quindi al 46% del PIL contro il 46,8% del corrispondente trimestre del 2007. Sui questi temi economici e soprattutto su come chiuderà l'Italia, il governo dice più 0,1% quest'anno, la Confindustria come centro studi dice meno 0,1. Ora è chiaro che lo 0,2 di differenza non cambia nulla da un punto di vista sostanziale, cambierebbe molto da un punto di vista formale, perché nel caso di un segno meno bisognerebbe parlare di recessione, nel caso di un più 0,1 sarebbe tra virgolette solo stagnazione. Il ministro Monti ha detto resta un alto grado di incertezza su quella che sarà la crescita finale dell'economia italiana, quindi a fine 2008, e comunque la riduzione della pressione fiscale resta un obiettivo del governo. La riduzione stabile e significativa della pressione fiscale è obiettivo fondamentale del governo, obiettivo che non è stato ancora possibile realizzare in questi, diciamo, cinque mesi. La fiducia è stata ottenuta il 15 maggio di azione del governo. Non è stato possibile farlo in questi primi mesi in ragione della priorità attribuita, oltre che agli impegni assunti dalla Repubblica Italiana in sede comunitaria, anche in dipendenza della esigenza di mettere in sicurezza il bilancio dello Stato. Il risanamento finanziario che ne deriverà, insieme con la riforma fiscale federale e con il miglioramento del ciclo economico, consentiranno di liberare le risorse necessarie per realizzare entro la legislatura non un aumento come finora è stato, ma una significativa riduzione dell'incidenza fiscale sui cittadini e sulle imprese italiane. E poi il tema della crisi finanziaria, e insomma questa settimana la declinazione di questa crisi finanziaria si è spostata dal che cosa ne sarà dell'America, quante altre banche salteranno in America, il piano di salvataggio, drammaticamente da lunedì tutti i commenti, gli interessi, i riflettori sono puntati sull'Europa, ossia quanto verrà propagata, quanto l'Europa resterà contaminata dai cosiddetti prodotti tossici. E anche su questo ha parlato oggi il ministro Tremonti, però iniziamo quindi ad aprire la pagina quotidiana, ahimè, sulla crisi finanziaria mondiale. La apriamo, ma restiamo in Italia, perché il ministro Monti ha detto i rischi per l'Italia e quindi per le banche italiane, per la loro liquidità, restano contenuti, lo ha detto sempre intervenendo in aula alla Camera. Le conseguenze della crisi sul sistema bancario e assicurativo italiano rimangono contenute. La situazione di liquidità delle banche italiane è adeguata. Il governo, nella sede del Comitato, ne ha preso atto. Il Comitato ha ritenuto opportuno continuare a mantenere sotto costante osservazione la situazione. Al fine di proteggere il mercato italiano da attacchi di natura speculativa che trovano alimento dal perdurante clima di incertezza del sistema finanziario internazionale, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Governatore della Banca d'Italia, si è impegnato ad adottare le misure necessarie per garantire la stabilità del sistema bancario e per difendere i risparmiatori. Così il ministro Tremonti, mentre secondo il ministro ombra dell'economia del PD, Pierluigi Bersani, l'intervento di Tremonti è stato sconcertante per non aver fornito alcun dato sull'esposizione del Tesoro e delle banche italiane rispetto alla crisi dei mercati, anche perché generiche pacche sulle spalle unite a nessuna informazione non sono tranquillizzanti. Oggi è intervenuto anche il presidente dell'ABI e quindi dell'Associazione delle Banche Italiane, Corrado Faissola, che ha detto non c'è nessun rischio di fallimento di banche in Alitalia. L'ex presidente di Confindustria Montezemolo e attualmente presidente della Fiat ha detto l'Italia ne uscirà meglio di altri paesi. Secondo il finanziere bretone Vincent Bolloré, presente anche in Italia in Mediobanca, la crisi è molto seria, molto profonda, ma dovrebbe sparire nei prossimi 10-12 mesi. Bolloré lo dice come se fosse una notizia positiva. Noi all'idea di un altro anno di focus economia così, forse potremmo anche optare per qualche altra soluzione. E invece, tornando a essere seri, oggi l'Euribor a 3 mesi, quindi il tasso interbancario su cui si calcolano i mutui a tasso variabile, è salito con il quinto record di fila al 5,33%. E adesso il fronte internazionale di questa crisi. Sentiamo che cosa ha detto sempre il ministro Tremonti per quello che riguarda anche l'iniziativa congiunta europea, nel caso specifico sulle società di rating. Noi abbiamo avuto modo di dire, e poi ieri l'abbiamo sentito anche dai PM, che la vicenda Parmalat conteneva, come un piccolo laboratorio del male, per carità, tutti i sintomi o molti dei sintomi che adesso si sono sviluppati con questo bubbone: mancanza di controlli interni dentro le banche d'affari, quindi dove erano i consiglieri, che cosa faceva il consiglio di amministrazione, i revisori contabili, e poi anche mancanza di controllo delle agenzie di rating, perché non è possibile che avessero voti così alti le obbligazioni di Lehman Brothers fino alla fine, mancanza poi di un controllo efficace da parte della SEC, quindi della Consob americana, e se volete anche un po' della Federal Reserve. Sulle agenzie di rating sentiamo Tremonti. Sul piano internazionale la nostra azione si è svolta di continuo a tutti i livelli in stretto contatto con i principali partners e nei diversi formati istituzionali. La Commissione europea ha approvato ieri la proposta di riforma dei requisiti di capitale delle società finanziarie. A questa proposta farà seguito una ulteriore proposta di riforma della regolamentazione delle società di vendita. Io credo che nel momento presente il tema delle regole contabili sia un tema di rilievo fondamentale. Sabato pomeriggio a Parigi è stata convocata dalla Presidenza europea la riunione dei quattro capi di Stato e di Governo dei Paesi membri del G7, con Francia, Italia, Germania e Regno Unito. Subito dopo, tra lunedì e martedì in Lussemburgo, prima nella forma delle riunioni dell'Eurogruppo e poi nella forma a 27, saranno i ministri dell'economia e delle finanze europei ad approfondire la situazione e a coordinare la loro azione. La settimana prossima, venerdì 10, confronteremo a Washington i nostri elementi di informazione e di valutazione e le nostre prospettive di azione in ambito ministri delle finanze del G8. E sul fronte internazionale, Tremonti è stato molto chiaro nel dire i prossimi appuntamenti a partire da Parigi sabato e poi gli appuntamenti di carattere europeo. Sul fronte internazionale, poco fa il Fondo Monetario ha detto: siamo di fronte allo shock maggiore da 30 anni, forti rischi sull'economia. È a questo punto fin troppo chiaro che lo shock, quello che stiamo osservando, è lo shock sui mercati finanziari più pericoloso dagli anni 30, lo ha detto il vice direttore del Dipartimento di Ricerca dell'FMI Charles Collins, il quale ha aggiunto: i rischi più forti sono in America. Va bene l'intervento delle autorità americane, è cruciale un forte intervento del pubblico, delle autorità pubbliche, del settore pubblico. E dalla crisi c'è un fortissimo rischio di un rallentamento economico negli Stati Uniti, mentre in Europa l'Europa è più protetta grazie al risparmio delle famiglie. Ma comunque il Fondo Monetario Internazionale, definendo lo shock in atto come il peggiore dagli anni 30, si becca oggi il nostro animale preferito. E allora il nostro caro vecchio gufo, da lì invece partiamo e dal Fondo Monetario partiamo per ragionare su quella che potrebbe essere l'iniziativa europea. Nel giorno in cui a Francoforte la Banca Centrale Europea ha lasciato invariato il livello del tasso di interesse, quindi a 4,25%, lo stesso Trichet ammette che la situazione è una situazione mai vista. Voglio dire, se lo dice lui siamo contenti che ne abbia preso atto. Ricordo a Trichet che in tempi di già crisi totale dei mercati americani, soprattutto con tutti gli ospiti di questo programma che dicevano non si capisce bene quanto grande sia il danno, la BCE ha aumentato quest'estate i tassi di interesse. Comunque, ne prende atto anche lui, sentiamolo. We are doing what we have to do. Stiamo facendo il possibile. In momenti come questi, in cui la situazione richiede le responsabilità dei governi, confermo che la Banca Centrale Europea giudica appropriato ed estremamente importante che i governi abbiano fatto, e bene, la propria parte. E poi Trichet ammette, ora io non voglio avercela sempre con la Banca Centrale Europea, però un minimo di coerenza nella vita è richiesta a chi occupa certi incarichi, ammette che il Consiglio di oggi ha esaminato la possibilità di tagliare i tassi di interesse. We are in a situation of exceptionally high. Il livello di incertezza è straordinariamente alto. Stiamo vivendo una situazione che non si è mai verificata prima d'ora. Eccezionale, proprio in termini di incertezza. Exceptional in terms of level of uncertainty. As the world economy as a whole is. Come tutta l'economia globale che sta scontando gli effetti della prolungata e intensa crisi finanziaria, i dati più recenti hanno confermato che anche l'attività economica europea si sta indebolendo a causa della contrazione della domanda domestica e di una situazione finanziaria sempre più difficile. E E allora, scusatemi, come si diceva, la BCE oggi ammette di avere valutato anche l'ipotesi di un taglio dei tassi di interesse. Nel frattempo ci ha raggiunto in collegamento, lo saluto, il direttore del Centro Ricerche sugli studi della politica europea, che sarebbe Center for European Policy Studies, Daniel Gross, buonasera. Buonasera. Sentiamo allora Trichet che ammette che oggi hanno parlato di un possibile taglio dei tassi di interesse. Ripeto, non vogliamo sparare sulla BCE, però una banca centrale che non più tardi di qualche mese fa i tassi li alza, nel momento in cui ragiona di un taglio dovrebbe ammettere che ha quantomeno cannato lo scenario. Sentiamo Trichet. Abbiamo esaminato due opzioni, quella di mantenere i tassi invariati e quella di abbassarli. Ma siamo tutti d'accordo all'unanimità che è giusto mantenere i tassi così come sono, ma abbiamo comunque esaminato entrambe le opzioni. Come ho detto più volte, siamo in una situazione di estrema incertezza. Ecco perché ci sentiamo liberi di fare tutto ciò che riteniamo più opportuno per mantenere e garantire la stabilità dei prezzi nel medio termine. Allora, professor Daniel Gross, un primo commento sulla Banca Centrale Europea, poi allarghiamo l'orizzonte invece all'iniziativa politica, soprattutto dei G4 che si vedranno sabato a Parigi. Lei è d'accordo, siamo troppo duri o la BCE non può proprio perdere la faccia e dire ci siamo sbagliati qualche mese fa? No, comunque lei si è sbagliata, come poi si sono sbagliati molti altri. Ma a questo punto non si tratta tanto di tagliare i tassi di un quarto di un punto percentuale, ma di tagliarli massicciamente se la situazione non viene stabilizzata dall'intervento delle autorità fiscali. A questo punto la BCE ci può fare poco, anche i tassi molto più bassi non aiutano le banche se nessuno si presta perché manca completamente la fiducia. Azione della BCE è utile, ma prima ci vuole la fiducia nei mercati. Allora, la fiducia, e qui entriamo in un tema che già altre volte affrontammo negli anni passati, più a cavallo con la psicologia sociale che con l'econometria, per dirla tutta. E cioè tanti calcoli, analisi tecniche, fondamentali di bilancio, fondamentali macroeconomici, saltano per aria di fronte all'elemento più insondabile nell'agire umano, e cioè la psiche. E non voglio farla barbosa e alta, però se lei introduce il tema della fiducia è chiaro che l'unico soggetto che ha una capacità di intervenire sulla fiducia collettiva come sentimento diffuso è il soggetto politico, non è più un soggetto meramente prettamente economico. Vorrei sapere se è d'accordo su questo e che cosa ne pensa del vertice di sabato a Parigi dei G4, cioè Germania, Francia, Inghilterra e Italia, per arrivare a una, diciamo, definizione europea di intervento. Infatti questo meeting di emergenza che ha organizzato la presidenza francese può essere molto importante, perché a questo punto non ci vuole più tanto intervento delle singole nazioni, ma ci vuole un intervento decisivo sul sistema, e questo intervento ha bisogno di due cose, cioè di una volontà politica, come diceva, ma anche degli strumenti adeguati. Questi strumenti la BCE non li ha. La BCE potrebbe esprimere una volontà politica di combattere l'incertezza sui mercati, ma non ha gli strumenti. Gli strumenti stanno con i ministri delle finanze. Lei un paio di giorni fa in un intervento sulla stampa italiana ha detto a questo punto deve intervenire la Banca Europea degli Investimenti, la BEI. Stava in qualche modo prefigurando un piano Marshall o un piano così da Tennessee Valley Authority Act tipico del 29, un intervento a sostegno a rete di protezione fatto da un organismo come la BEI, che è una banca appunto europea e ha una sua liquidità. Infatti la BEI sarebbe uno strumento, ma sarebbe solamente uno strumento per la volontà comune di tutti gli stati membri dell'Unione Europea per dire facciamo una cosa, facciamo non una cosa per salvare una singola banca, ma facciamo un approccio a livello di sistema, a livello europeo, che ci permette di ristabilire la fiducia, che è quella poi che manca al mercato in questo momento. Allora, per concludere sul concreto, però, professor Gross, oggi Sarkozy ha smentito l'ipotesi di un fondo comune europeo da 300 miliardi per il salvataggio delle banche europee in difficoltà. Ne ha smentito sia il principio, cioè l'esistenza di un fondo comune europeo, sia la cifra. E il premier britannico Gordon Brown ha detto che lui andrà alla riunione a Parigi, però non c'è un piano europeo. Questo distinguo britannico mi sembra un po' specioso nel momento in cui, se mi permette anche Gordon Brown, la Gran Bretagna è con la Germania il paese con maggiori difficoltà proprio per le esposizioni che hanno preso. Però lei che cosa si immagina debba uscire da un vertice, da un'iniziativa europea per ristabilire il clima di fiducia? In Irlanda hanno fatto una cosa da un lato semplice, dall'altro epocale. Hanno detto: noi garantiamo come Stato tutte le banche irlandesi, 400 miliardi di garanzie complessive, non che hanno tirato fuori 400 miliardi, ma le garanzie valgono 400 miliardi, tant'è che in Gran Bretagna, ne parlerà domani il nostro GR, molti correntisti stanno levando i soldi delle banche inglesi per metterle nelle banche irlandesi. Che iniziativa intravede lei? L'iniziativa irlandese era veramente presa solamente perché tutto il sistema del paese stava per colare. Ma è un'iniziativa che è molto costosa se rimane a livello nazionale. Quello invece che aveva proposto Sarkozy era proprio quello che ci voleva a livello europeo. Secondo i miei calcoli, proprio anche la cifra 300 miliardi era esatta, è quello che ci vuole per ristabilire la fiducia nel sistema bancario, per ridare al sistema il capitale da poter riprendere il suo lavoro, cioè quello di finanziare le imprese e le famiglie. Senza quel capitale il sistema bancario europeo non è in grado di finanziare l'economia europea e l'economia reale ne risentirà. Quindi, se ho ben capito, lei dice che 300 miliardi di euro di piano è una cifra vicina, simile, ragionevole, verosimile a quello che potrebbe essere il danno complessivo che il sistema europeo, bancario europeo potrebbe ricevere da questa crisi? No, il danno di questa crisi potrebbe essere molto molto maggiore. Ah, bene. Ma con 300 miliardi si potrebbe probabilmente limitare di molto il danno e risollevare l'economia. Probabilmente 300 miliardi sarebbero necessari non come costo, ma solamente come capitale messo dallo Stato, dai Stati europei nel loro insieme, per ristabilire la fiducia, e a questo punto il danno sarebbe veramente, per l'erario almeno, molto minore. Allora, no, anche perché 300 miliardi per 260, se vado a memoria, 70 milioni di europei vuol dire 1 milione di euro a cranio, bambini e anziani inclusi come danno. Non è che poi lo tiriamo fuori noi, per carità, però insomma dà l'entità di questa crisi. Quindi lei dice l'unica soluzione, per concludere, professor Gross, è il fondo comune, cioè che l'Europa si muova un po' come vorrebbe fare l'America di Paulson, ho capito bene? Infatti, quando si tratta di una crisi del sistema, non serve salvare una banca dopo l'altra, perché poi cade una dopo l'altra, alla fine cadranno tutti e il costo sarà ben maggiore. Invece, se si agisce prima, ci si mette qualcosa in comune, si potrebbe anche avere una situazione in cui non c'è crisi e il costo per la finanza pubblica è molto contenuto. Sì, giustamente poi alcuni ascoltatori dicono: vabbè, pensiamo che con 25 miliardi di dollari, cioè un'inezia rispetto ai 700 miliardi chiesti da Bush, si risolverebbe il problema delle vaccinazioni e della fame in tutta l'Africa. Lo so, è un tema che adesso non possiamo affrontare, ma oggettivamente è scandaloso il costo che questo genere di operazioni e questo sistema finanziario sta chiedendo all'intero sistema economico mondiale, non solo i cittadini, le imprese, tutti presi. E allora lei dice, professor Gross, tagliamo la testa al toro, non facciamo l'errore americano di cercare di salvare una banca dopo l'altra, così il domino aumenta, vengono giù tutte, garantiamo il sistema completamente e speriamo che questo poi permetta anche agli investitori di tornare sul mercato e alle banche di fidarsi, ho capito bene? Ecco, è proprio così. Se non si investe questa somma adesso e molto velocemente, poi il danno sarà molto maggiore e poi ci saranno molto meno soldi disponibili per finanziare la lotta contro la fame nel terzo mondo e altre cose. Perché se crolla l'economia europea, tutti gli stati europei avranno un problema di finanza pubblica. Allora, grazie a Daniel Gross, direttore del Centro per gli Studi Politici e Economici Europei di Bruxelles. Adesso, chiaramente sono 1000 euro a testa, non so se ho detto 1 milione di euro a testa, no, 1000 euro a testa, ma il problema è che non li tireremo fuori noi. Vedo che c'è gente che dice, ma vuol dire che un piano di 300 miliardi costerebbe 1000 euro a testa? No, non costerebbe 1000 euro a testa, nel senso diretto, però da qualche parte questi 300 miliardi di euro dovrebbero uscire. Grazie Daniel Gross. Parliamo adesso di borse e poi di Alitalia e poi dei contratti, gli altri temi di questa giornata economico-finanziaria. Molti messaggi che stanno arrivando sulla crisi, alcuni anche irriverenti nei confronti di Trichet. Diamo le responsabilità. Secondo il nostro avviso, la Banca Centrale Europea ha mantenuto un po' una politica dello struzzo, della testa nella sabbia, per troppo tempo. È andata avanti a preoccuparsi dell'inflazione dovuta al petrolio, non capendo che in America stava montando uno tsunami finanziario. E infatti il petrolio adesso è a 95, l'inflazione a settembre è scesa in Europa, l'euro è 1,38, ma il problema è un altro. Dopodiché, che volete che vi dica, ognuno ha le sue idiosincrasie e anche la Banca Centrale Europea ogni volta che sente la parola inflazione mette mano alla pistola, però non era questo il caso. Sugli stipendi dei manager ne abbiamo parlato in tempi non sospetti, dei milioni di dollari e euro che hanno beccato questi geni del crack finanziario. È un problema anche etico, ecco perché poi interviene la politica. Non è pensabile che, insomma, si parli di casta, l'abbiamo detto più volte, solo quando si toccano i politici o i sindacalisti, ci mancherebbe, o i giornalisti, e mai quando si parli di certi CEO o amministratori delegati o presidenti di grandi banche internazionali con i danni che hanno creato. Ma evidentemente era più facile attaccare la politica o altre categorie. I mercati adesso con questa chiusura deludente. Deludente perché avevano iniziato sostanzialmente invariati con un timidissimo rialzo, invece chiudono Parigi meno 2,2, Francoforte meno 2,5, Londra meno 1,8, Milano non è tra le peggiori oggi, anzi meno 1,4%, l'America perde il 2,15% sul Dow Jones, il 2,7% sul Nasdaq, il 2,5% sullo Standard & Poor's, euro sempre debole ma adesso a 1,38%. Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, le banche hanno alcune rialzate la testa, però oggi va male. La Popolare di Milano perde il 5%, il Banco Popolare il 3,6%, e di nuovo Unicredit si mangia parte dei rialzi di ieri, meno 2,5%, UbiBanca meno 1,6%, Alleanza meno 1,4%. Bene invece, Mediolanum più 4,2%. Mediobanca più 1,2, Monte dei Paschi più 1,1%. Guarda, il quadro è cambiato soprattutto nell'ultima ora di contrattazione, comunque nel pomeriggio, dopo che è emerso che in America ci sono state richieste settimanali alla disoccupazione pari a 497.000 unità, ovvero il livello più elevato dal settembre 2001. Quindi avviate le contrattazioni Wall Street in ribasso e conseguentemente tutte le borse europee hanno nettamente ripiegato. Anche a Piazza Affari ci sono stati numerosi titoli che hanno repentinamente appunto ripiegato al ribasso. Prismian, Tenaris sono state sospese per eccesso di ribasso e anche le banche sono andate giù, le banche invece che sostenevano il listino fino diciamo al primo pomeriggio. Come hai detto tu, anche Unicredit era ben comprata nella prima parte della giornata, poi proprio nel corso dell'ultima ora di contrattazione ha imboccato la strada del ribasso insieme un po' a Piazza Affari. Sì, però c'è una buona notizia per Unicredit, perché oggi l'offerta di un'obbligazione Unicredit da 2.300 milioni di euro proposta ai risparmiatori, quindi al pubblico retail come si chiama in gergo, sta andando bene quanto adesioni, lo comunica la stessa banca. Nel primo pomeriggio le adesioni risultavano pari a 700 milioni di euro. Voglio dire, se la gente compra obbligazioni Unicredit vuol dire che ha fiducia nel titolo, è un dato importante per questo motivo. Comunque, al di là delle banche, Eleonora, dopo le informazioni per chi è in viaggio, vorrei che tu mi commentassi che cosa è successo oggi sugli energetici, perché il peggior titolo è A2A SPA meno 6,3, Saipem il secondo peggior titolo meno 6,1, anche Prismian non va bene meno 5,8, e poi Eni perde il 2%. Eleonora, gli energetici, o quegli energetici soprattutto? Sì, ci va fatta una differenziazione. Gli energetici legati all'andamento del petrolio hanno accusato dei ribassi, perché oggi il petrolio è drasticamente scivolato, si attesta attorno ai $95 al barile. Peraltro uno studio di una banca d'affari ha indicato che potrebbe arrivare fino a $50 al barile. Ovviamente questo è positivo per i consumatori, ma non per le società che operano nel comparto petrolifero. Ecco perché anche Saipem, ad esempio, nel primo pomeriggio è stata sospesa addirittura per eccesso di ribasso. Poi altre società, come hai menzionato tu, A2A, sul finale è vero che ha perso il 6,3%. Il mercato ha puntato i riflettori soprattutto sul fatto che l'azienda ieri ha dato notizia di aver vinto la gestione del termovalorizzatore di Acerra, una notizia che ieri era passata abbastanza inosservata. Oggi ha dato il là alle vendite, tant'è che è intervenuto anche il direttore generale di A2A rassicurando e dicendo che in verità A2A è coinvolta solo nella gestione e non in investimenti appunto nel termovalorizzatore di Acerra. Allora, al di là di questi titoli, Prysmian c'entra niente né con le banche né con gli energetici, però perde il 5,80 oggi. Esatto, no, è stata sospesa anche per eccesso di ribasso improvvisamente nel primo pomeriggio. È stato il primo titolo a essere sospeso al ribasso, seguito poi da Tenaris, da Saipem e via dicendo. I trader parlano di un flusso di vendite, non ci sono motivi o voci particolari che giustifichino questo andamento. Si tratta probabilmente di vendite da parte di qualche grosso investitore che vuole dismettere i titoli dal portafoglio. Ancora sui titoli diamo anche i migliori e i peggiori della seduta, oltre ai titoli che abbiamo già ricordato. Fiat oggi va male, meno 3,5, Tenaris meno 4, Pirelli meno 3,80, Unicredit meno 2,5, Eni appunto dicevamo il 2%, Generali meno 1,90, Bulgari meno 1,7, Ubibanca meno 1,6, come Buzzi Unici, Intesa perde 1,5, come Alleanza, Snam l'1,3, Finmeccanica l'1,2, Unipol meno 1,1, Terna meno 1%, bene, oltre a Impregilo e Mediolanum anche Steam Microelectronics più 3, Parmalat più 2,5, L'Espresso più 1,80, Fast più 1,3, Mediobanca più 1,2, come il Monte dei Paschi. Il migliore Cell Therapeutics più 17% e Fortis più 11%. E anche ING più 10%, il peggiore Danieli meno 9,9, Stefanel meno 9,8 e basta. Le FIA e Tiscali meno 6,7%. Grazie, Eleonora Micheli. E adesso vediamo di capire quali sviluppi stia conoscendo la vicenda Alitalia. I fronti, chiaramente da un lato il fronte della CAI, ossia l'assemblea della CAI oggi ha deliberato all'unanimità l'offerta di acquisto e ha detto il presidente della CAI, compagniera italiana Colaninno, che si è parlato anche del partner estero nell'assemblea, nella riunione, nell'incontro di oggi. C'era la nostra Paola Nania che ha raggiunto l'amministratore delegato della CAI, Rocco Sabelli, il quale le ha spiegato come tra pochissimo si arriverà al passaggio della CAI, della trasformazione della CAI da una SRL a una SPA, una società per azioni. L'assemblea il prossimo 14 di ottobre. Tutto bene, e adesso ci abbiamo un sacco di cose da fare. Quindi la tabella di marcio dell'SPA, eccetera? Sempre più veloce bisogna essere. Quando? Prossima settimana lo saprete. E la scelta del partner, così risponde Corrado Passera. È stato passato un passaggio molto importante nella creazione della nuova azienda e quindi adesso si va avanti. Del partner? Fa parte delle cose che si faranno nelle prossime Quali settimane. Quali sono i tempi, dottor Passera, per la decisione? Quelli che l'azienda, questo ce lo diranno poi Colaninno e Sabelli quando avranno valutato tutte le ipotesi. E così il numero uno di Banca Intesa San Paolo. Sul fronte internazionale invece c'è stato il ricorso di Ryanair. Tra l'altro Roberto Colaninno ha detto che Ryanair ha il diritto di ricorrere. Ma insomma, che cosa contesta la compagnia per voce del direttore legale Jim Callaghan? che il piano di salvataggio è un aiuto di Stato non consentito, avendo cancellato fino a 2 miliardi di euro di debiti di Alitalia. Enrico Brivio, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, buonasera. Buonasera. Chiariscici meglio la posizione di Ryanair, e si può aggiungere anche quando sapremo da Bruxelles se la CAI, la nuova Alitalia, dovrà restituire 300 milioni di euro allo Stato italiano. Ma per quanto riguarda la seconda questione, il dossier è ancora aperto, quindi ci vorrà ancora, immagino, ci vorranno alcune settimane ancora perché si possa sapere se veramente quel prestito ponte dovrà essere restituito, anche se diciamo le probabilità sono alte. Per quanto riguarda invece il ricorso di Ryanair, non è il primo che la compagnia guidata da Michael O'Leary fa a Bruxelles. Diciamo che il vettore low cost Ryanair si è sempre posto un po' come il fustigatore di tutte le compagnie di bandiera e dei sostegni che i governi cercano di dare a queste compagnie. Infatti ricorda che oltre ad Alitalia di aver presentato insomma già ricorsi nei confronti di operazioni su Olympic, Air France e Lufthansa. Quello che contesta nel caso specifico è il fatto che il governo appunto secondo Ryanair farebbe un'operazione scorretta, in quanto l'attribuzione dei debiti ad una bad company fino a 2 miliardi, sostiene Ryanair, sarebbe un aiuto mascherato e che quindi sarebbe non sarebbe in linea con le regole comunitarie. Quindi Ryanair presenta questo ricorso. Sì, adesso io non voglio difendere tutti i costi all'Italia, non l'abbiamo mai fatto, però. Cioè, che cosa si aspettava Ryanair? Perché questa operazione potrà piacere o non piacere, ma insomma di fatto è ovvio che questa operazione prevede una good company e una bad company. L'operazione Air France non la prevedeva, ma questo sarà un problema anche di contribuenti italiani. Cioè, cosa voleva? Che fallisse l'Italia, che la si vendesse come asset in amministrazione controllata? Ma sì, quello che viene obiettato è che in effetti questa procedura, che è in fondo quella che è stata appena avallata da Bruxelles nei confronti di Olympic Airlines, cioè di scindere diciamo una bad company da una compagnia che riparte per il futuro però con un processo di privatizzazione, questo tipo di procedura viene contestato da Ryanair perché sostiene che alla fin fine i debiti vengono pagati dai contribuenti in qualche modo e quindi si tratta di un aiuto di Stato. Su questo non c'è dubbio. E non sarebbe permesso. No, che i debiti li pagheremo noi, la parte della bad company, un miliardo e mezzo, non c'è dubbio. Diciamo che è un po' a mio avviso, una estensione del concetto di aiuto di Stato, perché uno Stato può anche decidere di separare in due una società, vendere la parte buona a un privato e tenersi lui la parte cattiva. Cioè, l'aiuto di Stato di solito, Enrico, è qualcosa di più diretto. Cioè, per esempio, i 300 milioni dati all'Italia per sopravvivere nel frattempo, quello, se non dovesse essere ritornato, sarebbe molto più palesemente un aiuto di Stato, o no? Ma qui appunto si apre un dibattito su come debba essere inteso l'aiuto di Stato. In realtà anche gli sgravi fiscali talvolta sono stati per esempio interpretati dalla Corte di Giustizia come aiuto di Stato, nel senso che si tratta comunque di una somma che lo Stato si prende a carico e che ha un impatto sulla concorrenza. Ecco, se guardiamo al mercato obiettivamente... ci può stare, dici tu. Anche questa seconda ipotesi. Grazie al corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, Enrico Brivio. Rapidamente, però, come sempre, per chi si fosse appena messo in collegamento, le notizie in breve di questa giornata. Giornata che ha visto i mercati iniziare la seduta tutto sommato positivi o comunque invariati, poi chiudere male: Parigi meno 2,2, Francoforte meno 2,5, Londra meno 1,80, Milano meno 1,7, l'America sta perdendo 2,5 punti percentuali, l'euro debole è tornato sui livelli di un anno fa a 1,38, adesso il petrolio è sceso a $95 il barile. Tra i titoli, alcuni energetici particolarmente male: A2A meno 6,3%, Saipem meno 6,1%, Eni meno 2%, male anche Prysmian, meno 5,80, Popolare di Milano meno 5,1. Bene, invece in pregiro più 4,9, Mediolanum un più 4,24, ST Microelectronics più 3%. Nel giorno in cui il ministro Tremonti è intervenuto alla Camera per parlare di crisi finanziaria e ha detto i rischi per l'Italia restano contenuti. Le conseguenze della crisi sul sistema bancario e assicurativo italiano rimangono contenute. La situazione di liquidità delle banche italiane è adeguata. Il governo, nella sede del comitato, ne ha preso atto. Il comitato ha ritenuto opportuno continuare a mantenere sotto costante osservazione la situazione. Al fine di proteggere il mercato italiano da attacchi di natura speculativa che trovano alimento dal perdurante clima di incertezza del sistema finanziario internazionale, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Governatore della Banca d'Italia, si è impegnato ad adottare le misure necessarie per garantire la stabilità del sistema bancario e per difendere i risparmiatori. Sconcertante, secondo il Ministro ombra del PD all'economia Bersani, l'intervento di Tremonti per non aver fornito nessun dato sull'esposizione del tesoro e delle banche italiane rispetto a questa crisi. Nel giorno in cui da Parigi Sarkozy fa sapere che sono del tutto prive di fondamento come ipotesi e come numeri le voci circolate di un piano di intervento da 300 miliardi di euro concertato sulle banche europee, ma nel giorno in cui la Banca Centrale Europea, nel lasciare i tassi invariati, ha detto abbiamo esaminato comunque anche l'opzione di un possibile taglio di tassi perché la situazione è una situazione di crisi mai vista. Abbiamo esaminato due opzioni, quella di mantenere i tassi invariati e quella di abbassarli. Ma siamo tutti d'accordo all'unanimità che è giusto mantenere i tassi così come sono, ma abbiamo comunque esaminato entrambe le opzioni. Come ho detto più volte, siamo in una situazione di estrema incertezza. Ecco perché ci sentiamo liberi di fare tutto ciò che riteniamo più opportuno per mantenere e garantire la stabilità dei prezzi nel medio termine. Adesso le informazioni per chi è in viaggio, poi parliamo dei contratti di lavoro. Attenzione, lo dico a chi scrive al 349-238-6666. Sappiamo benissimo che la BCE può solo intervenire sui tassi e la critica nostra, l'obiezione, il rilievo era proprio sul modo in cui si è mossa in questi mesi sui tassi di interesse, alzandoli in un periodo in cui già il bubbone, l'entità della crisi sembrava imponente e nettissimo a tutti. Allora, dopo lo scontro ieri tra CGIL e Confindustria, Emma Marcegaglia ha detto se la CGIL rivuole la scala mobile valutiamo l'ipotesi di continuare con CISL e WIL. Secondo la CGIL puntare più sui contratti aziendali che quelli nazionali porterebbe una diminuzione dello 0,5% annuo del potere d'acquisto dei salari, secondo la Confindustria invece porterebbe aumenti superiori almeno di un punto percentuale rispetto all'inflazione programmata. Oggi la Presidente Confindustria ha incontrato anche Walter Veltroni e ha poi aggiunto sul tavolo non ci faremo imporre veti da parte della CGIL e per quello che riguarda la trattativa ha detto noi andiamo avanti, ma la nostra Elisabetta Fiorito oggi nel pomeriggio ha intervistato il numero uno della CGIL Guglielmo Epifani chiedendogli in primo luogo quali siano le ragioni del no alla proposta degli imprenditori. Perché, contrariamente a quello che si dice, non è una proposta che rafforza la contrattazione di secondo livello, è una proposta che riduce il livello della contrattazione nel contratto nazionale e in quello di secondo livello. Per quanto riguarda poi gli aumenti salariali e retributivi, è una proposta che riduce, rispetto anche a quello che avviene oggi, la dinamica delle retribuzioni. Fa pagare soltanto il lavoratore dipendente l'aumento delle bollette e del prezzo dell'energia importata dall'estero, rimette in discussione il valore del punto su cui si calcolano le percentuali degli aumenti, le due cose messe assieme determinano una riduzione del salario e quindi anche da questo punto di vista non affronta il tema di rendere più sicure le prospettive e più forti le retribuzioni dei lavoratori. e anche il tanto ventilato problema del rapporto con la produttività non trova nessuna risposta da questa riforma, perché se tu non ampli il secondo livello di contrattazione o riduci la contrattazione diventa anche più difficile lavorare per accrescere la produttività. Lei dice sarà il Far West. In più c'è il problema che se non lavori a rifare un unico modello generale puoi avere 4 o 5 sistemi contrattuali diversi e a quel punto puoi avere sì il Far West, nel senso che ogni azienda può scegliersi il contratto di riferimento, quello più conveniente per l'azienda e magari meno conveniente per il lavoratore, per questo ci vogliono delle regole universali. Gli altri sindacati però dicono sì, questo fa sì che CGL sia sempre più isolata rispetto a CISL e UIL. Ma il problema non è essere isolati, è chiaro che noi vogliamo stare con tutti, con CISL e UIL e con gli altri. Il problema è che bisogna che ci si dica sul merito se le cose che solleviamo sono fondate o sono infondate. A me non piace una raffigurazione di un sindacato del sì o del no, mi piace una raffigurazione del sindacato che dice e spiega il perché di una sua posizione e chiedo a tutti di dire sulle posizioni che in questo caso noi stiamo assumendo se sono corrette o se sono sbagliate. Così si fa il confronto tra le posizioni, se no i lavoratori e i cittadini non capiscono, mentre invece c'è bisogno che tutti abbiano le informazioni per farsi un giudizio. Che cosa direbbe Emma Marcegaglia oggi, il punto di incontro di CGL? No, non ho niente da dire a nessuno, o se no consigli per me non mi permetto mai di darli a nessuno, ognuno decida secondo la propria coscienza, riflettendo bene delle scelte e degli atti, perché ogni scelta e atto naturalmente poi ha delle conseguenze. Così il segretario della CGL Guglielmo Epifani, intervistato dalla nostra Elisabetta Fiorito. Delle dichiarazioni del pomeriggio del presidente Confindustria Marcegaglia abbiamo già detto, è uscita anche una dichiarazione del numero uno della Fiat, Sergio Marchionne, che ha detto poco fa: ho fiducia nel sistema della Confindustria per quello che riguarda la trattativa con i sindacati per il rinnovo del modello contrattuale. E allora, visto che domani inizierà la prima giornata di lavoro del convegno annuale dei giovani imprenditori a Capri, presenti tra venerdì e sabato i ministri Maroni, Prestigiacomo, Scajola e soprattutto sabato il ministro Tremonti, ma anche gli esponenti dell'opposizione Bersani e D'Alema, più numerosi numeri uno delle imprese italiane. Chiuderà i lavori come sempre la presidente di Confindustria Marcegaglia, però ne parliamo con chi questo convegno lo organizza, ossia il presidente o la presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Federica Guidi. Buonasera e benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. Il tema di Capri quest'anno è un tema energetico: innovare l'energia, imprese, ambiente, tra sviluppo e sostenibilità. Ne parleremo anche domani. Vorrei però un primo commento sulla trattativa in corso. Chiaro che i giovani la osservano, diciamo, da osservatori non partecipanti, perché il tavolo lo conduce il vicepresidente di Confindustria Bombassei, il presidente di Confindustria Marcegaglia, però è ovvio che questa trattativa riguardi anche e soprattutto voi che o gestite o gestirete le imprese nei prossimi anni. Il giudizio è di forte preoccupazione, nel senso che io credo che sia sotto gli occhi di tutti, ecco, che ci sia bisogno di una spinta innovatrice per ridare un po' di slancio alla competitività delle nostre imprese, alla crescita, alla produttività. Questa, diciamo, della riforma dei modelli contrattuali in generale delle relazioni industriali, credo fosse una delle grandi, diciamo, scommesse che avevamo di fronte per cercare di dare una scossa, ecco, a un sistema che è vecchio, che è obsoleto, che è irrigidito da mille vincoli, lacci, lacciuoli. E quindi perderla è naturalmente così, diciamo, una scommessa mancata per dare, forse fra le tante, perché può darsi che non sia, diciamo, sufficiente, ma comunque questo era ed è un segnale importante per cercare di innovare qualcosa, perché noi l'abbiamo detto a Santa Margherita Ligure, insomma, nel nostro primo convegno di questa nuova presidenza: le relazioni industriali sono uno dei fattori di successo che noi intravediamo per gestire le nostre imprese nel futuro. l'obiezione, poi passiamo al tema anche della crisi finanziaria, ma l'obiezione della CGIL, l'abbiamo appena sentita o risentita, è si creerebbe un far west contrattuale per cui imprese dello stesso settore, magari anche vicine geograficamente, avrebbero contratti molto diversi tra loro, la parte diciamo integrativa a secondo livello, e dall'altro non si recupera il potere d'acquisto e non viene tutelato il potere d'acquisto dei lavoratori. Ma guardi, io non voglio entrare nel merito della trattativa, mi sembra che il documento di Confindustria insomma sia ampiamente esplicativo del fatto che alcune delle cose che ha detto il segretario Epifani non sono secondo me diciamo fedeli ecco, a quello che è lo spirito del documento che Confindustria ha presentato. Io posso solo dire che noi a Santa Margherita addirittura parlammo, naturalmente come provocazione, di un contratto ad personam, nel senso che io credo che non solo non ci sia rischio di un far west, ma credo che per interpretare bene in maniera moderna le relazioni industriali ci sia bisogno di qualcosa che intercetti sempre di più, quasi a livello personale, la capacità che ogni lavoratore ha di stare nell'impresa, perché i tempi sono cambiati, quindi è come gestire un cambiamento culturale con strumenti che sono vecchi, datati, ecco, quindi questa è la discrasia che io vedo e che purtroppo con questo irrigidimento ecco, non si riesce diciamo a interpretare bene l'esigenza di innovatività che c'è nel nostro paese, che credo le imprese abbiano e che credo che larga parte anche dei lavoratori riconoscano. Ecco, tra le cose che sono sicuramente invecchiate con una rapidità mai vista prima, ci sono anche gli strumenti finanziari che fino a pochi anni fa, un anno e mezzo fa, invece venivano visti come la punta di diamante della finanza internazionale, dell'ingegneria finanziaria, della finanza fatta nei tempi, nell'Olimpo, insomma gli aggettivi si sono sprecati in questi giorni, Wall Street e anche la City di Londra. Voi, mi sembra di aver capito, ribadite a questo punto la necessità di porre al centro ancora di più l'economia reale fatta da piccole e medie imprese in questo paese per il 98% dei casi. Ma soprattutto toccherete questo tema all'interno del convegno, perché poi il rischio che la stretta del credito vada a toccare non solo le famiglie che hanno un mutuo, ma anche gli imprenditori che hanno un prestito o vorrebbero avere un prestito per sviluppare l'attività, è un rischio molto forte. Ma io più che un rischio purtroppo la vedo come un'eventualità molto probabile che temo negli ultimi giorni stia già accadendo. Naturalmente, diciamo, per quello che ci riguarda, per quello che riguarda le tese dei giovani imprenditori, non toccheranno specificatamente questo aspetto, perché il convegno è focalizzato su un altro tema, che è quello appunto dell'energia e dell'ambiente. Evidentemente, come sempre, offriamo poi diciamo così al nostro parterre, ai nostri ospiti, la possibilità di commentare gli ultimi accadimenti, fra cui anche questo, e quindi non escludo che naturalmente nei vari interventi dei nostri ospiti questo possa essere toccato. È chiaro che il rischio c'è, l'economia reale io credo che sia tutto sommato ancora abbastanza solida, ben solida in questo paese, soprattutto perché le piccole e medie imprese, gli imprenditori che conosco io, per il 90% è gente che non si occupa di finanza speculativa in questo senso, ma si occupa di produzione, di impresa, di manifattura, di impresa, diciamo la parte reale ecco, della produzione, naturalmente senza però voler demonizzare quel pezzo di finanza che è naturalmente una delle leve per gestire un'azienda. Ecco. Allora, lei già introduceva l'ultima domanda che ho per lei. Il tema vostro riguarda l'energia. Ora, con la rapidità e la velocità che è stata impressa alle notizie e ai fatti economico-finanziari in questi mesi, è chiaro che quando uno deve fare un convegno lo decide mesi prima, organizza il tema mesi prima, e oggettivamente ancora a luglio il petrolio aveva toccato il nuovo record storico come prezzo al barile in dollari. Il petrolio è ridisceso, siamo a 96-100 dollari al barile. Siete pentiti di aver scelto questo tema, perché nel frattempo superato la cronaca per esempio dei contratti, sul tavolo dei contratti o sulla crisi finanziaria, oppure il tema resta perché tanto le politiche energetiche si modificano nell'arco di 5-10 anni? No, nessun pentimento, anche perché ripeto purtroppo la cronaca ci ha offerto molte cose di cui parlare, ma naturalmente il fatto che i giovani imprenditori oggi ritengano indispensabile anche dare il proprio contributo, piccolo insomma contributo su un tema così strategico, rimane, e credo che la valenza del tema energetico e del, diciamo, la gestione di un impatto ambientale intelligente e non a svantaggio della capacità di competere e di crescere industrialmente parlando nel nostro paese rimanga come una delle esigenze di sviluppo per le nostre, proprio quelle piccole e medie imprese che oggi anche sul tema energetico stanno facendo fatica, ecco, a competere, non solo per un problema di costi ma anche per un problema di eccessive regole, di eccessivi appesantimenti che ci derivano da una serie di impegni che ad esempio l'Europa ha preso. Bene, grazie al presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Federica Guidi, in bocca al lupo. Poi domani, io vi ricordo, anche Focus Economia come ogni anno sarà in diretta da Capri, quindi avremo modo di sviluppare anche questi temi. Grazie Federica Guidi. Grazie mille a voi, buon lavoro. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Berisoni le auguro di una buona serata. Ci sentiamo domani dalle 17 in poi.